Cari amiche, cari amici del Radio Alma Brussellando, bentrovati, bentrovate. E con una certa emozione che ci ritroviamo qui questa sera, perché per quest'anno Brussellando volge il termine. E siamo abbastanza tristi, perché comunque insomma è stata un'annata davvero ricca. Forse siamo stati in diretta, George, quante volte? 40, 44, insomma, è stata questa terza edizione sicuramente la più importante. È stata un'edizione nella quale abbiamo consolidato molte delle relazioni già intraprese nei due anni precedenti, in cui abbiamo dato vita poi a due nuove sezioni, La penna del diplomatico e Curiosando, e in cui la nostra Fiordaliso ha avuto insomma questo suo momento, il librangolo, veramente insomma, che è cresciuto di settimana in settimana, e sono tantissimi gli ospiti che quindi si sono alternati ai nostri microfoni, e le stime di quelle che sono poi le persone che scaricano, quindi non ascoltano semplicemente ma scaricano le puntate, è veramente incoraggiante e stimolante. E quindi io ringrazio tutti coloro i quali comunque continuano ancora a scriverci, che ci seguono settimanalmente. So che ormai siete davvero davvero tanti. E pure il cielo questa sera si è commosso, perché dopo 5 settimane insomma di sole c'è un cielo un po' grigio, e quindi insomma un po' di pioggia, della quale a volte siamo magari nostalgici dopo tanto, insomma, dopo questo lungo inverno, poi queste bellissime settimane di sole. E oggi questa volta un po' di cielo grigio. Grigio. Però ci sta, dai, grigio, George, su. Tutto sommato. Sì, ci sta che dai, se le pianga, anche se io non sono niente emozionato. Dai, non fare così. Non sono emozionato per niente. Ragazzi, George stasera, prima di venire qui a Brussellando, si è cosparso di cipolle i suoi occhi. Sì, mi sono cosparso di cipolle gli occhi e di cenere il capo. Pure. E accolgo l'occasione per chiedere perdono per tutte le cose che non ho detto. Esatto, che avresti potuto dire e che hai mantenuto vabbè. Ti farai perdonare il prossimo anno, perché tanto, insomma, questo è soltanto un arrivederci, una pausa estiva, perché poi ci ritroveremo dal 28 settembre, grosso modo, a ricominciare la quarta edizione di Brussellando. Già, Sic Transit il Ford. Esattamente, però io non amo molto le Ford. Ma non è colpa mia, cioè, così dice la frase, Sic Transit il Ford. No, di tutte le macchine, guarda, la Ford proprio non mi è mai piaciuta. Vabbè. C'è chi piace, e non piace. Fare la rima con H non piace. No, proprio no. Fare la rima con Toyota è difficile. No, perché poi se la facessimo, l'altra rima accostata potrebbe risultare poco piacevole. La Toyota è una macchina politica, c'è un certo governatore di una certa regione che fa rima con Toyota, quindi ne ho letto, fra l'altro. Lasciamo stare, la politica la lascerei proprio, guarda, a chi ama farla, noi facciamo solo la radio. Beh, questo è un modo di fare politica, volendo, no? La radio è politica, no? Non nel senso che vediamo ai vari DG, però insomma le varie DG, pure quelle, per il momento dimentichiamoci DG anche quelle. E questa sera ovviamente non potevamo chiudere Brussellando se non con un ospite che ritorna graditissima al telefono questa sera, Maria Teresa Santa Lucia Scibona. Sicuramente vi ricordate, è stata già nostra ospite un anno e mezzo fa ormai, il tempo passa effettivamente velocemente. Maria Teresa noi abbiamo avuto modo, noi di Brussellando, di incontrarla dal vivo qualche mese fa, siamo stati piacevolmente suoi ospiti un pomeriggio in quel di Siena, e siamo stati accolti veramente con tanta gioia. E altrettanto quindi la nostra di gioia questa sera riaverla nuovamente nostra ospite. La volta scorsa il nostro era stato soprattutto un incontro più o meno discorsivo, quindi avevamo parlato veramente di un po' di tutto, di quella che era stata l'evoluzione della letteratura in Italia, di tutte le personalità che Maria Teresa ha avuto modo di incontrare personalmente. Questa sera invece siamo veramente contenti perché vi sveliamo invece la poesia di Maria Teresa, che è una poesia molto variegata, molto, molto varia, in cui riesce ad essere ancora così entusiasta e dei temi di cui parla, perché sono un po' tanti, quindi c'è il tema dell'attesa, c'è il tema della femminilità, ovviamente c'è il tema dell'amore, poi ci sono temi magari più sensibili, c'è il tema della disabilità. E questa sera noi invece vogliamo dedicarci all'amore imperfetto, che è una delle sue ultime composizioni, edito da Helicon nel 2003. E abbiamo scelto delle poesie che possano un po' rappresentare l'ampia raccolta, anche se queste ultime saranno semplicemente rappresentative, perché riuscire poi a toccare tutti i temi di Maria Teresa in una sola trasmissione in 20 minuti effettivamente, insomma, le farebbe un grande torto. Invece con queste 5 poesie cercheremo, insomma, di discorrere un po' di più su temi a noi molto cari, e riprendiamo il filone, quello della femminilità, di cui pure avevamo discusso la settimana scorsa. Per un fortuito incontro atteso da tempo infinito, il fluido sentimento facile preda dell'immaginazione è pronto a dissipare un capitale di felicità. Con misteriosa alchimia il corpo riluttante s'abbandona. Un cumulo di ferite, fessure di rosso velluto premono la dispensa della memoria. Un breve interludio di passione ha posto la pietra miliare del tuo amore. Questo è soltanto un assaggio, quindi il nostro Giorgio ha letto soltanto una parte della poesia L'uomo dolce? No, questa era Anatomia di un amore. Anatomia di un amore, sì, lo leggiamo più tardi. Maria Teresa, pronto? Non c'è, è scomparsa. Maria Teresa è scomparsa. Chi sabe? Il mondo tecnologico è fatto così, che ci dà un sacco di possibilità, però poi ce le toglie anche. Non c'è niente da fare. Ma sai com'è, insomma, il tempo, è la pioggia, è il tempo, fulmine, è la pioggia, che appena, il tuono. Chissà. No, ma a me un giorno dovremmo fare una riflessione sulla tecnologia, sul concetto di progresso. Che cosa significa progresso? Cioè, hanno speso un sacco di parole, scritto libri e libri sul progresso, però io vorrei che anche qui in radio, in studio, analizzassimo un po' il concetto di progresso, perché non mi convince molto. Progresso, regresso. Sì, il progresso vuol dire andare verso. Verso. Ma verso dove? Questo è il problema. È questo che non riusciamo a capire. Noi scopriamo sempre cose nuove, però non so se questo si può chiamare progresso. Chiamerei evoluzione della scienza. Vabbè, ma è progresso? Questa è un'ardua domanda, Giorgio. Effettivamente, la settimana scorsa devi sapere, in tua assenza, che con Fiordaliso e con Dani M ci siamo ritrovati ad intavolare una discussione sul futuro, da un lato, dell'alimentazione. Perché abbiamo, insomma, commentato questo libro Eating Animals, giusto? Esatto. Ecco, insomma, la mia memoria potrebbe... Ci siamo ritrovati effettivamente a fare questo tipo di riflessione, se poi tutto quello che mangiamo oggigiorno e le modalità poi, insomma, di preparazione di alcuni alimenti, poi sento uno strano rumore di fondo. Forse in linea. Maria Teresa? Buonasera, sono io. Ah, buonasera, bentornata, benvenuta nuovamente a Brussellando. Ben trovata a te, mio, che mi sento con tanto piacere. Altrettanto, noi siamo felicissimi di averla nuovamente qui ai nostri microfoni questa sera, in particolar modo perché è la nostra puntata di chiusura di quest'anno di Brussellando, quindi ci è sembrato essere veramente... un nostro bellissimo omaggio, e la ringraziamo di aver accettato il nostro invito questa sera. Sono io che ringrazio voi, perché per me è un onore avervi non solo conosciuto ma anche potervi risentire. Sono molto lieta e molto grata a tutti voi. Il nostro George poc'anzi ha appena letto un paragrafo di Anatomia di un amore, non so se era già in linea quando Giorgia ha potuto insomma leggere già qualche verso. E, noi questa sera abbiamo deciso di parlare in particolare di Un amore imperfetto, questa sua raccolta di poesie, che ci ha particolarmente colpito perché in poche pagine si toccano comunque temi molto importanti, e ci è piaciuto anche molto lo stile giovanile, vivace, e anche la curiosità con la quale insomma si vede che queste poesie sono state scritte. E c'è un tema a cui noi siamo particolarmente affezionati, ed è un po' quello dell'attesa. L'attesa che in queste sue poesie può essere magari il confronto tra un'età, diciamo, più da adolescente, un'età più adulta, ad un'età poi che diventa finalmente grande. Cos'è per Maria Teresa l'attesa? Dunque, come ti dicevo, innanzitutto io ti sono molto grata per aver trovato nei miei versi delle sensazioni condivisibili e reali riscontri. In effetti, quando ho meditato questo libro, ho voluto, come posso dire, dare risalto alle sottili sfumature del sentimento, con le loro inevitabili fratture, e ho appunto analizzato le aspettative, le reazioni amorose delle diverse tipologie, psicologie femminili, e avrei visto che ho messo in risalto le poesie sulla madre, sulla donna ideale. Assolutamente sì. Sulla bambina violata, sulla meretrice. Quindi io ho focalizzato un amore al femminile, ma poi che servisse anche all'uomo, con errori da non fare per capire il nostro mondo. E in effetti, dalla notte dei tempi, ancora non esiste una valida ricetta etico-amorosa tanto efficace da poterla applicare come un balsamo per le ferite. Normalmente noi queste ferite le infliggiamo alle persone che amiamo. Ciò avviene perché abbiamo paura di amare e di metterci in gioco, questo per non soffrire. Quindi a questo punto cerchiamo di rendere coriaceo il nostro cuore, e come abbiamo fatto tutti nella fugace gioventù ricca di rose, di sogni, di chimere, abbiamo vagheggiato un amore vero e duraturo. Però di norma vorremmo tutti un rapporto sentimentale sublime, pur nutrendo un timore recondito che l'amore finisca, o col desiderio, che poi è un'illusione, che la passione venga eterna. Il mio tenero. Viene la delusione, inevitabile delusione dell'aspettativa, avviene fra l'aspettativa dell'incontro, atteso e vagheggiato in ogni minimo particolare, e poi il reale appuntamento con l'altro, che difficilmente si verifica come l'avevamo a lungo immaginato. Questo in un certo qual modo l'ho illustrato nell'Uomo Dolce, perché hai visto quando tu sogni di avere un amore e che devi appunto andare a questo appuntamento, ti prepari e dici: ora io gli dirò, lui mi dirà. E poi invece che succede? Succede che basta un'altra cosa banale, che entri e tutto quello che tu hai immaginato e pensato non si realizza. E quindi praticamente arriva una delusione. E se poi, come mi avevi fatto riflettere tu sulla femminilità, allora dobbiamo pensare che l'amore è una molla misteriosa e potente, che è capace di modificare il naturale egoismo per accontentare i desideri dell'amato. Maria Teresa, facciamo parlare anche un po' i suoi versi. Giorgia già pronta una breve lettura. Sì. Il mio tenero amore, bambino inascoltato, totalmente indifeso, cresciuto in solitudine, avverte il vuoto nero dell'assenza, ignora la pazienza dell'attesa. diafano sogno, crudele tumerosa da cui affiora la vetta dell'orgoglio. Ma ancora, l'ostinato silenzio, svaluta l'anima all'elusiva parvenza di passione, realtà non verbale di vana sofferenza. Mio cuore, vittima e carnefice, se tu duro fossi, impermeabile come nido d'alcione, se memore della cruda illusione e ragione, nutriresti che non si apprende la felicità. E questo, insomma, riprendeva anche una frase di Oscar Wilde: i cuori sono fatti per essere spezzati, quindi il coraggio di farsi spezzare il cuore e quindi di rischiare. Di spezzarlo anche. Maria Teresa, pronto? Ascoltavo, intanto ringrazio Giorgio perché l'ha letto magnificamente. Il nostro Giorgio è un mito. Che io quando le sento leggere così bene dico, ma l'ho scritto la mia vita, loro hanno tutto un altro smalto. Ritorniamo un attimo quindi a questo secondo tema che è trattato anche veramente con estrema maturità. Parlavamo quindi prima della donna che nella sua raccolta si ritrova, come già avevamo detto, in varie figure. Quindi c'è il ruolo della madre, c'è il ruolo della bambina. Dico ruoli, ma semplicemente per facilità, insomma, per poter poi trovare una categoria, perché poi tutto sommato si è donne sempre. E se dovessimo trovare una linea di pensiero, queste poesie ho notato che sono state scritte, diciamo, a volte con un po' di distanza l'una dall'altra. Quanto è cambiato il suo approccio rispetto alla sua stessa età? Ha avuto l'età, quindi del tempo che passa, un'influenza sul modo di scrivere queste poesie? Ma ovviamente io penso che in realtà cambino gli scenari e forse si allargano le idee, però il sentimento di base secondo me rimane inalterato, perché se pensi, io alle volte ci rifletto, questi giorni che sentiamo quanto le donne vengono ammazzate per la gelosia, ora con tutta la libertà che l'uomo si è preso e che la donna si è preso, sembrano inconcepibili, eppure diciamo che per certi aspetti risiamo al Moro di Venezia, come te hai visto, non so se l'hai letta quella poesia, Il vero e il falso, in cui io appunto dedicata a Bertazzi, no? Proprio sì. Questo che è errato il pensiero, l'uomo pensa voglio dire, l'uomo è rimasto più tradizionale rispetto a noi abbiamo avuto una diversa evoluzione secondo me, anche se poi questa evoluzione ci ha portato in altri lidi e siamo rimasti nel nostro cuore, desideriamo poi la stessa tenerezza di una volta. Beh, potremmo anche leggere la tua poesia, no? Questo è che le persone non si possiedono. E è un'illusione pensare che ammazzando una persona la si possieda per sempre. Quindi io affrontando le varie tematiche e poi anche per esperienze non dirette, però per le amiche, qualcheduna magari può essere stata anche diretta, delle delusioni che posso aver avuto io nel corso della mia vita, ma ho voluto proprio cercare di analizzare le varie situazioni delle donne. Da una donna che potrebbe essere ideale, che viene macinata dal logorio continuo delle attività quotidiane che fa, a una donna che invece è un oggetto, è una meretrice, è un oggetto, e che però forse in un altro ambiente non sarebbe vissuta così. E l'uomo, insomma, ecco, ho cercato di focalizzare le varie tipologie femminili. E ovviamente, quando il prezzo che paga tra due in un rapporto, il prezzo è pagato sempre dalla persona che ama di più, e quindi questo il destino di molte donne quante volte è stato vissuto con segrete pene e quanto per quieto vivere ha dovuto subire una pesante sudditanza da parte del compagno. Ecco, a questo proposito, Maria Teresa, volevo leggere a questo proposito, proprio su quello che stai dicendo, volevo leggere una delle tue poesie. Sì, sì, ti ascolto. Mi allettava il tuo schematico paesaggio mentale, così logico e disadorno, quasi una struttura ossificata dove ancorare i sogni. In quel cubo di sconforto, fra letti sfatti e aloni di vapori, smoriva il desiderio di te. Volevi rovistare nei pensieri, nei sentimenti accantonati. Da tempo immemorabile mia nonna e poi mia madre subivano le stesse imposizioni col riso divenuto opaco, per seppellire senza clamori, coniugali disarmonie. Ho indossato la consapevolezza che invano reclamavi. Ora che l'animo è cesellato al bulino del dolore, la mia persa giovinezza era il disordine naturale del bosco, un mare di incantesimi con infinite rinascite. Maria Teresa, sì, ti ascolto. Questa è stata una delle poesie che veramente ci ha colpito di più, perché trovo che anche l'uso dei simboli, per esempio il riso opaco o il bosco di Sadorno, oppure già solo l'inizio, quando ci si rivolge poi all'amato, penso che faccia riemergere anche valori che in un certo senso abbiamo un po', la nostra società, la nostra era, per alcuni versi ha voluto un po' dimenticare. Perché se è vero che prima probabilmente poteva esserci una forte dipendenza e quindi c'era questa figura imposta, non a caso le famiglie erano definite patriarcali per definizione, dall'altro è come se nell'ultimo ventennio, in una rapidità pressoché impressionante, come se avessimo saltato un po' delle fasi. E quindi in quella famiglia così patriarcale è come se oggi mancasse l'attore protagonista, possiamo dirla insomma così. E io non so, magari è una nostra impressione, magari insomma poi le poesie sono belle proprio perché ciascuno poi ritrova un messaggio e quindi la parola diventa una e allo stesso tempo molteplice. E magari puoi aggiungere tu qualcosa, magari correggere questa interpretazione oppure confermarla, insomma darci ragguagli in più. Perché andando poi con il pensiero ai primi anni, quando io della mia età eravamo più giovani, vi era un po' il sostegno della famiglia intorno, e anche se noi desideravamo questo desiderio infinito di libertà, mi rendo ora conto che forse si sono fatti troppi passi avanti e quindi c'è stata poi una totale disgregazione. Poi io non giudico questa situazione della disgregazione, per carità, ma ovviamente la famiglia era il primo nucleo della società che ha sostenuto anche questa società e quindi certo, era importante questo senso, e penso che oggi viviamo una situazione più diversa, più complicata del passato. L'uomo, appunto per la natura differente, proprio l'uomo si pone e vive con maggior disagio il proprio rapporto sia sul piano pratico ma anche sul piano esistenziale. Anche perché da sempre la donna è madre e è fulcro e custode della vita, e a lei è proprio stato dato il compito della sopravvivenza del figlio. Si devono amalgamare ovviamente armonicamente caratteri diversi, Certo. E non è una questione di essere dolci o perversi, ma una questione di genere maschile e femminile, basta, perché il temperamento devono amalgamare il temperamento di sensibilità individuale, di educazione, valori ricevuti, e bisogna tenere conto anche dell'ambiente nel quale uno è cresciuto. Esatto. Oserei dire persino della qualità e della quantità di amore che i genitori ci hanno profuso. Quello poi assolutamente è uno di quei bagagli che continuiamo a portarci dietro in ognuna delle nostre età. È un qualcosa che ci resta dentro da bambini e che ci accompagna comunque, volenti o nolenti, anche nella vita adulta. Giorgio vorrebbe ancora leggere qualche altro verso. Bene, bene. Era tempo da riaggiare le stanze e buttare le ortiche alle immagini distorte, il velario delle apparenze. Una donna adibita a museo, superbo trofeo coi soffitti stuccati, da mostrare agli amici. Il gelo delle tue parole è filtrato indelebile nelle pareti dell'anima. Eppure, se rifletti, eri tu l'avversario di te stesso. Il divario di fondo fra ciò che ci illudiamo d'essere e quel che veramente siamo. E non serve un pietoso separè di illusioni, di inganni, fallace monumento parsimonioso negli affetti. Eri solo d'argilla. Non il possente menire eretto per le uccise Paracelso. Contro filtri ed agguati mi preservò la mia collana d'ambra, la scusi e la rinfusa, quei rimpianti drappi viola di malinconia, robusta la ringhiera che cingeva l'equivoco dei vaghi sentimenti. Un florido ottimismo mi pervase, con agio e voluttà. Chiusi piano la porta dei ricordi, il cancelletto della gabbia d'oro. La notte sorrideva sconfinata quando scesi il sentiero libertà e non mi volsi indietro. Maria Teresa. Scusami di questo silenzio, ma io non sento quando lui finisce. Comunque, per riprendere la gabbia d'oro. Esatto, esatto. Ecco, in questo testo ho voluto far vedere uno dei tanti rapporti con l'uomo, no? Infatti quante volte ci sono degli uomini che sposano delle donne belle, le vogliono eleganti, le vogliono ingioiellate, lei rimane inappagata, perché lui ne ignora l'anima e le sue tristezze, e quindi dopo questo sterile menage preferisce lasciarlo senza rimpianti. Ecco, io in questa gabbia d'oro ho voluto fare un flash su questo tipo di rapporto, perché sai benissimo che ogni rapporto ha un suo iter, ha un suo svolgimento a seconda della persona con cui sei, e io mi sono immedesimata in tutte in varie situazioni e ho cercato di capirle psicologicamente e di immaginarmi anche le loro reazioni. Toglimi una curiosità, la gabbia d'oro fa riferimento metaforicamente ad un anello? A un anello? Sì, pensavo alla fede nuziale, ma questa può essere poi... La gabbia d'oro è una persona che, pur avendo una bellissima casa, è ingabbiata in questa situazione. Ah, ecco. Un anello può essere una gabbia d'oro, ci fregano a vita. Non è solo quello. Nel senso, se poi non c'è un rapporto di interessi, perché l'amore, tu sai benissimo, è come un giardino, va coltivato ogni giorno gli si dà la sua gocciolina d'acqua, e ci vuole tanta buona volontà per farlo, per alimentare e per farlo crescere. Maria Teresa, io però... sembra che nessuno ci pensi. Ci siano poche persone che abbiano questa volontà di alimentare un sentimento che duri un po' più a lungo. Ma Maria Teresa, io volevo farti una domanda. Alla prima che mi fai ci scendo e me ne, te ne vai. Sì, certo. Ma io volevo farti una domanda. Cioè, è vero questo della gabbia d'oro, che e poi appunto le donne vengono ingioiellate, mostrate come trofeo di guerra, però dato che io parlo dall'altra parte della, cosiddetto, del fiume, quant'è la responsabilità della donna? Perché credo che quando qualcuno presenta gioielli o comunque presenta qualcosa di dorato, comunque un po' dovrebbe puzzare. Insomma, la faccenda, se io fossi una donna, la faccenda mi puzzerebbe, direi, vabbè, devo stare attenta perché i luccichi sono belli, per carità, è tutto carino, però qua qualcosa ci cova. Insomma, gatta no, ci cova. No, io... Non c'è nessuna responsabilità della donna nell'accettare. I giudizi sono sempre obiettivi, obiettiva, nel senso che bisogna distinguere il tipo di donna. E ci sono delle donne che sono penali e rapaci, io ci salvi da loro. Ci sono degli uomini che possono pensare che con un gioiello hai conquistato l'anima di una persona, quindi qui non è una questione, è una questione da persona a persona, da persona a persona, secondo quello che incontri. Semmai quello che io, sul quale io rifletto molto, è che mentre noi per qualsiasi tipo di lavoro, se prendiamo lo sport, se prendiamo qualsiasi ambito, noi facciamo dei corsi di perfezionamento e ci prepariamo a questo incontro e a questo esercizio che vogliamo fare nella vita. La cosa più importante, che è l'amore, noi ci facciamo prendere dal sentimento pensando che poi l'altro cambia o che tutte le cose si aggiustino. Invece bisognerebbe, secondo me, valutare un pochino prima l'altra persona, anche se ci sono poi delle persone che si mascherano proprio bene. Io sto parlando in generale, certo, non certo. Do né la colpa all'uomo né la colpa alle donne, perché ho conosciuto uomini meravigliosi e donne meravigliose che magari non si sono incontrate o magari erano semplicemente mal assortiti, momenti sbagliati, c'è anche da dire questo, oppure nella selezione che noi abbiamo fatto nei confronti degli altri abbiamo scartato proprio quello giusto perché abbiamo imbeccato quell'altro o quell'altra che non meritava nemmeno certo. Sguardo. Quindi la complicazione amorosa penso che sia una delle più difficili, e anche come ho detto prima non ci sono delle ricette, e anche il fato, come ti posso dire, l'incontro, se la vogliamo mettere sotto un profilo religioso, vediamo che l'uomo buono tocca la donna cattiva e viceversa. Ma non sarei molto d'accordo. Comunque, quest'ultimo aspetto lo sfumerei un pochino. Poi bisogna intendersi sulla bontà e sulla cattiveria. Giorgio ha un'altra poesia da leggere. Sì. Nutrivo patetiche ambizioni e storie da vivere. Fu l'ultimo ballo d'estate. Ansante, ringiovanivo i pensieri. Al varco il male divulgava radici. Ignoravo che fosse più augurabile morire. Inerme, sul filo dei giorni, ma tardo a contare anniversari e devastazioni. Questa è la poesia di chiusura di un amore imperfetto. E magari non so se volevi aggiungere qualcosa in merito. Ecco, dunque, questa è l'ultima stagione. Una poesia, diciamo, autografa, come posso dire, autobiografica, via, ho detto autografa, stasera sono emozionata, perché mi legge così Giorgio e io entro nel pallone. Beh, è anche autografa però, oltre ad essere autobiografica, quindi mancava un pezzo, non è che è errato. E dunque, e qui si riferisce a me, perché come vedi, la data è del luglio del 77. Sì. Luglio del 77 è quando io andai a Castiglione della Pescaia al mare, un posto bellissimo, e quindi feci l'ultimo ballo, perché tornando da Castiglione dopo le ferie iniziarono delle febbri enormi, e quindi praticamente mi arrivò una devastante malattia e di lì iniziò la mia non vita, perché finì su una sedia a rotelle e per me è stato molto duro, perché ero una persona iperattiva e quindi è stata anche l'ultima stagione, un periodo durissimo, dalle stelle alle spalle, e mi sembrava una cosa finire su una sedia a rotelle per una tipa come me, che faceva yoga, che nuotava, che ero anche abbastanza carina, insomma, così via. Mi sembrava una cosa ingiusta e crudele. Poi, con certosina pazienza, mi sono adattata, anzi, cercando di trovare in questa vita, in questo destino così brutto, qualcosa che alleviasse anche lo spirito, qualcosa di bello, per cui valeva ancora la pena vivere. E che cosa è successo? Che questo mi ha distaccato dagli eventi, dalle futilità delle cose. Ho riscoperto le cose essenziali della vita, magari le piccole cose, l'amicizia, l'amore come dovrebbe essere, anche il denaro, pur essendo diciamo così necessario per noi che spendiamo 3 volte, io per esempio vivo con una misera pensione, veramente misera, devo tagliare le riviste e tutto, ma questo è secondario, perché alla fine tu ti rendi conto che il valore della vita è un altro, e allora riscopri quella gerarchia dei valori. E io so, per esempio, come è successo quando è venuta Marilena a trovarmi con Daniele e con suo fratello, che non sono venuta né perché sono bella e né perché sono ricca o né perché potessi offrire qualcosa di straordinario. Sono venuti per me, perché c'è stato un legame, perché c'è stato un legame affettivo con Marilena, perché c'è stato un affetto, e quindi per me è stato un grande dono, un grande regalo. E diciamo che le persone come noi, che alle volte sono un po' emarginate, molte volte possono insegnare anche a vivere, perché il tempo purtroppo scorre per tutto, inevitabilmente, e il saperci destreggiare fra i morosi della vita penso che sia una cosa molto importante. Maria Teresa, guarda, credo che effettivamente non c'era modo migliore per chiudere veramente questa nostra edizione di Bruxellando. Anche perché molto spesso, come dicevi, in realtà ci si dimentica poi dei valori, quelli veri, di quelli che ci fanno far star bene, che ci fanno ridere, che ci regalano attimi di felicità e di serenità. E credo che effettivamente anche per i nostri ascoltatori, per quanti ci ascolteranno in diretta e quanti ancora avranno piacere di riascoltarci in podcast, non può essere che veramente un augurio ed un auspicio e un monito anche per queste vacanze e per i mesi che verranno, insomma, concentrarci su quelle cose belle che poi la vita stessa ci può regalare, perché in un bicchiere si può sempre decidere di vederlo o mezzo pieno o mezzo vuoto, poi a ciascuno di scegliere, però un bicchiere non è mai mezzo vuoto, è sicuramente mezzo pieno. Io quando ci siamo incontrate a Siena, veramente la sua forza d'animo, la forza, ecco, è un concetto strano da esprimere, però era evidente, era palese, ha contagiato tutti noi. Insomma, noi tre lì presenti siamo stati veramente, veramente felici di questo incontro dal vivo, e ci tenevamo quindi in particolare di risentirci in radio. Grazie, perché per me è stata una grande gioia. La mia casa modesta è sempre a vostra disposizione, il mio cuore vi appartiene. Ti ringrazio tutti, ringrazio Giorgio, te, Daniele e anche gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Ti abbraccio forte e ti auguro un'estate favolosa. Grazie. Fai un bagno, fallo anche per me. Sicuramente. Maria Teresa, allora noi ti ringraziamo e speriamo di risentirci per la quarta edizione, perché questo è soltanto veramente un arrivederci, quindi ad ottobre. Spero proprio anche di rivedervi e passate da questo parte. Speriamo, guarda, veramente speriamo, abbiamo ancora tanto da raccontarci. Quindi ricordo ai nostri amici ascoltatori L'amore imperfetto, collana di poesia e quaderni dell'Aerone, edizioni Helicon, prefazione di Neuro Bonifazzi, Maria Teresa Santa Lucia Scibona. Buone vacanze e a prestissimo. Grazie Marilena, grazie anche a te e a tutti, ancora di nuovo con tutto il cuore, grazie. Un buonasera. Grande abbraccio anche da parte mia, salve. Grazie Giorgio, sei meraviglioso, e anche Daniele. Buonasera. Buonasera. Salve. Versione gregoriana questa? Versione Angelus. Versione Angelus. La versione gregoriana sarebbe un po' diversa. Sarebbe... questa è la versione gregoriana. Beh, grazie, ci voleva. Sì. Vabbò. Però non possiamo nemmeno andare più lontani rispetto ai gregoriani, perché stiamo andando verso il Giappone stasera. Infatti parleremo di Haruki Murakami, di cui Haruki Murakami non è che stiamo parlando per la prima volta, cioè alcuni dei suoi libri già ho menzionato, forse vi ricordate di Norwegian Wood o Kafka sulla spiaggia o Nel segno della pecora, vabbò. Anche se non vi ricordate, il nostro podista. Cosa vuol dire podista? Quello che corre. Ah, quello che corre, anzi ve lo menzionerò di nuovo il fatto che corre, perché volevo anche farvi un attimino, stavo riflettendo sulla connessione fra l'uomo e la sua opera, no? Perché l'uomo è abbastanza, cioè, da un lato è ipernormale, iperorganizzato, da un altro lato invece è anche un po' strano, ed è esattamente come sono i suoi libri fondamentalmente, perché c'è uno che non so, che va a letto alle 9 e si sveglia alle 4 del mattino. Sì. Lavora, cioè proprio come un orologio ogni giorno, lavora, scrive. È uno che a cui gli è venuto in mente di scrivere guardando un match di baseball e guardando uno dei baseballisti prendere una palla, diceva: ma cavolo, io potrei scrivere un romanzo. E a prescindere di quelli che, perché ci siamo in tanti a credere e pensare di poter scrivere un romanzo, ma a prescindere di quelli che credono, pensano in un attimo che riusciremmo magari a scrivere un romanzo, lui invece si siede e davvero scrive un romanzo e vince anche dei premi. Quindi, non lo so, cioè è sposato con la stessa donna tutta la sua vita, si sono sposati prima che lui finisse l'università. Infatti è per quello che aveva anche interrotto per un poi studi, poi dopo ha aperto un jazz bar di cui vi ho già raccontato. Quindi ha delle esperienze molto ricche, molto diverse. È un uomo normale, no? Che ogni giorno esce per correre non so quanti chilometri e lavora, però è anche un po' strano. Ecco. E adesso mi è venuto in mente perché sto infatti leggendo uno dei suoi libri che si chiama L'uccello che girava le viti del mondo. E comincia così. E comincia infatti così, perché la nella scena iniziale del libro c'è il protagonista che sta cucinando degli spaghetti ascoltando l'ouverture della Gazza Ladra che il nostro George ci sta intonando. Sì, la Gazza Ladra, non di ce Rossini. La possono sequestrare come musica. No, è di Rossini, quindi non sappiamo. Ormai la Gazza Ladra l'avevo ammutolita, va. La Gazza Ladra. E quindi anche in questo libro, come un po'... Che io ho visto una versione, adesso lo devo dire, una versione un po' strana, di un certo Damiano Michieletto, un regista giovane, che ha fatto questa cosa stranissima. Che anche lui è normale, però un po' strano. È normale, un po' strano, ma sicuramente un po' strano perché ci ha messo dei tubi. Cioè, è uno spettacolo che, dove ci sono qualcosa come 30 tubi enormi. E tu, George, non hai capito un tubo? No, io avevo capito, però ho detto, ma questo mi sembra uno spettacolo del tubo. Infatti, è passata la storia come spettacolo del tubo, però con questo spettacolo ha vinto, se non erro, il premio Abbiati. No, che l'ha vinto, sono sicuro, il premio Abbiati, che è un premio molto rinomato in Italia per registi opera. Per artisti, e però l'ha vinto con questo spettacolo che ha dato una cosa interessante, insomma, un elemento essenziale per questo premio. E comunque andate a vederlo perché è proprio divertente. Un'opera in un modo completamente diverso, fruibile anche da un pubblico giovane. Scusate, chiusa. Quindi il libro apre così. In un mondo assolutamente normale, nella vita di un protagonista assolutamente normale, con una moglie, con una vita sua, e che però ad un certo punto c'è sempre un punto in cui qualcosa di straordinario entra nella vita delle persone, ma entra in un modo che fa anche a noi lettori accettabile tutte le assurdità che magari succedono dopo, perché i personaggi scivolano in questo limite fra la realtà come lo sperimentiamo tutti e una tipo coscienza comune, non lo so come dirlo, un mondo di non so, di destino, di controllo, di meccanismi che stanno praticamente sotto o sopra la nostra vita, non si capisce bene. Questi personaggi scivolano verso questo mondo quasi senza osservarlo, quasi con dei passi minuscoli in un certo senso. Alcune cose strane succedono, poi ad un tratto tutto il mondo si capovolge. Però il mondo si capovolge anche perché generalmente questi personaggi stanno un po' cercando il senso della loro stessa vita, o hanno perso qualcosa o stanno cercando qualcosa, sempre. O non sono definiti loro come persone, o hanno dei dubbi, o hanno perso qualcosa nella loro vita che è essenziale. E quindi questo dà anche luogo ad un sacco di riflessioni. Per esempio, in questo romanzo c'è un adolescente di 16 anni, strana anche lei ovviamente, che proprio diventa un po' la voce della saggezza nel romanzo. Cioè è lei che alla fine dice alcune, o trae alcune delle conclusioni e riflette su cose tipo quanto, per esempio, l'esistenza stessa della morte, per esempio, ci faccia fare delle cose straordinarie. Cioè il fatto che se non esistesse la morte, se non fossimo effimeri, ad un tratto un sacco di cose che facciamo non avrebbero più senso, o non avrebbero più... o ci mancherebbe proprio la forza che ci propelle verso fare delle cose abbastanza straordinarie, semplicemente perché non c'è questa limitazione. Questo George generalmente lo esprime come la creatività della come si dice in italiano, della scarsità. Ah sì, scarsità della vita, anche esatto. Molto caro a George, quindi lui sì, già in passato ha espresso più volte sì. George è proprio scarso, sì, infatti questo è quello che dico sempre di me, cioè, sono proprio scarso, quindi mi devo inventare per sopravvivere. E quindi anche questo romanzo è abbastanza strano, e lo so che magari potrebbe anche non sembrare molto invitante, però vi inviterei di leggere Haruki Murakami, di provare almeno una volta con qualsiasi dei suoi libri, eccetto le raccolte di storie, che secondo me non sono un granché, perché lui non è uno scrittore di storie brevi, lui è uno scrittore di romanzi, di ampio respiro, diciamo, è capace di tenere una storia in mano in modo molto cioè incredibile. Cioè, da un lato la sua scrittura è cinematografica, perché praticamente dà uno sfondo musicale, dà delle immagini che sono molto, molto visive, che sono quasi cinematografiche. Dall'altro lato invece è molto anche poetico e anche molto preciso, cioè descrive anche cioè, per esempio cucinare i spaghetti, cioè è tutto, fa parte un po' dell'immagine di quel che tiene il mondo reale insieme, le piccole cose che sono presenti molto nel dettaglio. E lo so che magari non sono molto capace di descrivervi esattamente che sentimento danno questi libri, ma vi invito piuttosto di leggerli. Quindi vi raccomando, sì, L'uccello che girava le viti del mondo, vi raccomando Norwegian Wood o Casca sulla spiaggia, che sono tutti dei miei preferiti. Beh, potrete leggere per esempio nell'ultimo libro citato, quello di cui stiamo parlando, L'uccello che girava le viti del mondo, noterete che all'inizio c'è un errore gravissimo commesso dallo scrittore, ma è interessante che questo errore gravissimo, racconto solo brevemente, che sta cucinando gli spaghetti, suona il telefono e lui dice oh oh oh oh e non vuole rispondere, però alla fine risponde lo stesso, e allora cosa fa degli spaghetti che sono sul fuoco? Spegne l'acqua, spegne il fuoco sotto l'acqua, il che farebbe inorridire anche i bambini più piccoli. Non è possibile, cioè se si spegne il fuoco, spegne il fuoco e butti la pasta, cioè non si può interrompere. C'è una bellissima canzone di un toscano che sotto mentite spoglie diceva: non interrompere mai le cose che vanno per il loro verso. Se gli spaghetti si stanno a cuoce, non li spegnere, per favore. Giustamente. Oh, santa pace! Ci siamo quasi, eh? Ma sai, se sforiamo di un minuto questa sera dobbiamo interromperci, come gli spaghetti, non vale. Dobbiamo interromperci, non vale. Eh no. Fra pochi secondi dobbiamo mandare anche il segnale orario che dirà sono precisamente le 22. Ragazzi, se volete lo diciamo tutti in coro, alle 22. Sì, io direi di salutare tutti. Mancano di 12 secondi. E poi lo diciamo tutti insieme e poi diciamo i saluti, perché non si va può bene, dare i saluti dai, così. Così vinciamo questo segnale orario. 5, 4, 3, 2, 1. Ping! Il è preciso! Ed eccoci qui. Siamo quindi ai saluti. Non so se George vuole aggiungere magari... Io è difficile aggiungere qualcosa, come gli ascoltatori ormai si sono resi conto, io qui sono una figura di rincalzo, nel senso che ci sono due donne. Tra poco ci sarà un omicidio in diretta. Ci sono due donne, ovviamente laddove ci sono due donne, gli uomini fanno un uomo fra due dame fa la figura del salame, dice l'antico Brocardo. E infatti ciò che è successo durante quest'anno, però devo dire che. È per quello che ci sono due uomini. Appunto, George, grazie. Sì, ma uno di là del vetro non vale. Beh, comunque. No, e quindi questa figura di rincalzo, però non è che mi dispiace, insomma, è carina stare da questa parte così, anche perché dà la possibilità di vedere, di esserci e non esserci, di intervenire, ma anche di guardare le cose da fuori in modo oggettivo. Insomma, io quello che ho sempre sostenuto e sosterrò sempre è che c'è una, diciamo così, una torre, non eburnea perché non sia rinchiusa, ma c'è una torre di questo programma che è Marie D, e c'è questo bellissimo uccello che vola intorno alla torre e che manda colori, mano colori, che è Fiordaliso, e poi ci sono io che sto là sotto, faccio scopo per terra, tengo pulita, faccio entrare chi deve entrare, faccio uscire chi deve uscire, e ditemi che non è importante, gli dice: è arrivato l'ospite! E io, sì, è qui sotto, lo faccio entrare. Se fosse chiuso, non ci fosse il portiere, quello non entrerebbe, insomma, non ci sarebbe la trasmissione. Scusa, George, Dani M chi sarebbe in questo simpatico quadretto? Scusa? Dani M chi sarebbe in questo simpatico quadretto? Chi, scusa? Non ho capito, chi? Ah, ho capito, è quello che sta per picchiare George Laurent, ho capito. Esattamente. Allora, siccome a me piace celiare, di questo se no sono resi conto un po' tutti. No, guarda. No, la cosa che mi piace è che Bruxellanda è la terza edizione, da quando abbiamo cominciato in una pizzeria fino ad oggi, insomma, le cose di acqua ne è passata sotto i ragazzi, conti, quest'anno, molto bello. Quest'anno 39 puntate. Non è mica poco. 39 puntate, ragazzi. Cioè, quest'anno ci siamo permessi, il terzo anno di volontariato sociale, ci siamo permessi forse di bucare due o tre volte, forse per due o tre volte non siamo andati in onda, con i mezzi che scarseggiano sempre di più. No, e soprattutto vorrei ricordare che dal primo di gennaio del 2010 ci hanno tolto la voce musicale. Ah sì, questo è stato una grande cosa, però rimetteremo il tappeto su questo. Ecco, questa è una promessa che vi posso fare. Bene. E che Bruxellando vi fa: da settembre, quando ritorneremo, avremo anche un tappetino musicale. Perfetto. Non so se col pelo alto o corto, insomma. Vabbè, là poi vediamo. Tanto c'è Zani M poi che... Esatto. Ma è stata una bellissima avventura, continua ad essere una bellissima avventura, con alti e bassi, con cose estremamente interessanti, puntate così che invece vanno via un po' più dolcemente, è una cosa che ci tiene legati tutti quanti qua. Non so se anche i teleascoltatori sono così affezionati a Bruxellando come lo siamo noi, però ci piace incontrare la gente, ci piace parlare di libri, di poesie, ci piace parlare di spettacolo. Prima di chiudere vorrei giusto una cosa per i nostri ascoltatori: seguite il blog di Bruxellando nella prossima settimana, perché abbiamo una sorpresa per voi. Le sorprese quindi non sono finite. Fiordaliso, no. Volevi aggiungere qualcosa? Io sono la voce del silenzio attentivo, quindi semplicemente grazie per l'ascolto. Spero di avervi potuto suggerire delle cose interessanti. Scrivetemelo se sì, non lo so. E buone vacanze. Scrivetemelo se sì. No, scrivetemelo. Cioè nel senso sì. Scrivete sul blog se siete d'accordo con Fiordaliso, e se non siete d'accordo con Fiordaliso commentate, anzi commentate sui libri, potremmo aprire uno spazio. Avete letto i libri di consigliati a Fiordaliso? Scrivete: Fiordaliso, su questo libro non hai capito un H, oppure no, hai capito un H e anche una C, però comincia con C, cia cia cia, che è. E quindi insomma sarebbe interessante. Le novità insomma non mancheranno. L'interattività. Ci stiamo veramente pensando. Allora noi ovviamente vi ringraziamo del vostro fedele ascolto, e speriamo di ritrovarvi ancora più numerosi dal prossimo settembre. Io saluto ancora Maria Teresa, che è stata la nostra ospite conclusiva di quest'anno, e auguro veramente a tutti voi delle serene e felici vacanze. Serene e felici? Sì. Cioè con tempo sereno e in che senso? Spiegati un po' meglio. Con il tempo meno nuvoloso possibile, solo sole. Solo sole? Sì. Per quelli che non ne hanno troppo. Esatto. Per quelli che ne hanno troppo un po' di pioggia. Ragazzi, ricordo a tutti che Giorgio è in vendita a un euro. Ve lo ricordo. Vabbè, lo compro. Se c'è l'asta, partire da un euro, poi vediamo. Ma dobbiamo finire proprio qua così. Vabbè, sì. Siamo costretti dal vento. Perché ci costringiamo a un'ora sola? Beh, potremmo fare una trasmissione di due ore. Apriamo la parentesi. C'era quella canzone che diceva un'ora sola ti vorrei. E poi c'è un'altra canzone che mi piace moltissimo, che è Partenopea come Melody, che diceva: una settimana, un giorno, a volte un'ora, possono bastare una vita intera. Vero. Beh, direi con questo saluto, veramente. Ci risentiamo a settembre.